Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9 e 8 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, la mail vivavoce@radio24.it. L'ultima fotografia impietosa sul sistema giustizia in Italia l'ha scattata qualche tempo fa il Consiglio d'Europa, basandosi su dati del 2006 di una cinquantina di paesi europei. Diamo qualche numero per capire. Giustizia civile. In Italia, davanti ai tribunali di primo grado, ci sono pendenti 3.687.965 cause. In Germania sono appena 554.000, in Spagna 781.000. Solo la Francia supera il milione di cause pendenti. In Italia, lo ripeto, sono circa 3.700.000. Ed è un trend che crescerà, ovviamente, perché le cause entranti sono più di quelle che arrivano a sentenza. Il penale, cause giacenti in Italia in primo grado, al 2006, 1.204.151. In Inghilterra sono 70.000. In Germania 287.000. In Spagna 205.000. Perché la giustizia italiana è allo sfascio? I fondi, sempre secondo il Consiglio d'Europa, ci sono. Solo la Germania investe più di noi, 8 miliardi 700 milioni di euro l'anno. L'Italia 4 miliardi e 88 milioni. E poi via via tutti gli altri paesi, dunque siamo secondi. Ecco che arriva il ministro Brunetta con una forse battuta, dice: bisognerebbe mettere i tornelli ai tribunali. Apriti cielo, le reazioni, le polemiche. Il ministro Alfano alla giustizia ieri ha detto: sarebbe bello vedere i tribunali aperti mattino e pomeriggio. Libero oggi titola: dai, lavorate di più, cari magistrati. Insomma, bando alle semplificazioni che sono l'anticamera del qualunquismo. Però cerchiamo di capire perché questi numeri in Italia oggi. Lo facciamo. Io voglio salutare il presidente del Tribunale di Varese, Emilio Curtò. Presidente, buongiorno. Buongiorno, dottore, buongiorno. Così come voglio salutare il segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Cascini, benvenuto. Buongiorno. Salvatore Grimaudo, che è presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, gli avvocati civilisti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E voglio salutare un collega, Massimo Martinelli, del Messaggero, cronista giudiziario da anni, ha scritto un libro sulla giustizia il cui titolo è emblematico, La Palude. Benvenuto, ciao Massimo. Buongiorno. Alessandro. Buongiorno a voi ospiti e agli ascoltatori. E parleremo ovviamente di perché La Palude. Allora, 800 24 00 24 per intervenire, gli sms al 349 238 6666. Perché i numeri che ho dato della giustizia sono impietosi e portano un quadro della giustizia italiana nel civile e nel penale allo sfascio? Vabbè, Brunetta sappiamo ha detto i tornelli, tra poco leggerò anche quello che oggi il ministro Brunetta ha ribadito sulla stampa. Prima però, visto che si dice sempre la giustizia allo sfascio, invece ci sono anche delle punte di eccellenza, delle punte di merito, dei luoghi dove la giustizia funziona meglio che altrove. E a questo proposito abbiamo chiamato e voglio partire da lui, il presidente del Tribunale di Varese, Emilio Curtò. Presidente, voi soprattutto, ma non solo, nella sezione separazioni e divorzi avete messo a punto un sistema che rende veloce il tutto. Ci spieghi in che cosa si tratta? Sì, i dati che lei ha fornito sono impietosi e apparentemente non sarebbero speranza di poter risolvere questa crisi. A Varese abbiamo tentato di migliorare l'efficienza complessiva del nostro ufficio senza avere la pretesa di avere trovato ovviamente soluzioni miracolose. Per restare alla sua domanda, per quanto riguarda i divorzi cosiddetti consensuali, che sono quei ricorsi proposti dai coniugi congiunta perché hanno trovato una soluzione concordata sui problemi, sulla loro vicenda familiare. Noi abbiamo ideato un programma che è stato realizzato con risorse interne che sveltisce la trattazione di questi procedimenti attraverso la produzione dell'intera modulistica di supporto di queste procedure. Tanto per entrare un pochettino nel dettaglio, i tempi, le cadenze di questo procedimento prevedono tutta una serie di incombenti, per esempio la comunicazione da parte del cancelliere una volta che è depositato il ricorso all'ufficiale dello Stato civile comune dove è stato celebrato il matrimonio, la predisposizione di un decreto di composizione dei coniugi, un verbale di udienza, la sentenza, insomma tutta una serie di documenti e di atti che riproducono a volte anche più di una volta nello stesso documento dei dati di sì. carattere generale, come ad esempio le generalità appunto dei coniugi o dei difensori, oppure il luogo e la data di celebrazione del matrimonio. Voi lo fate tutto in un'unica seduta, in un'unica udienza, in un'unica convocazione? Sì, noi lo facciamo in un'unica convocazione, l'udienza camerale, cioè non è pubblica, si fa questo procedimento davanti al tribunale collegiale, quindi davanti a tre giudici, e viene definito pressoché contestualmente. Facciamo un'unica udienza al mese e portiamo 30-40 procedimenti in una mattinata, li definiamo. Si tratta naturalmente di procedimenti che hanno un livello di serialità e di ripetitività ovviamente abbastanza elevata, ed ecco perché l'informatica ha potuto gestire al meglio, perché l'informatica esalta le sue potenzialità di fronte a delle operazioni di carattere Presidente ripetitivo. Però voglio dire, è una cosa che si è inventato lei, o meglio si è inventato il suo tribunale con i suoi collaboratori, è una cosa riproducibile, immagino, altrove, sì, in Italia, nel senso, sì, non è... Sì, sì, è una cosa che mi sono inventato io, che ho realizzato grazie alla collaborazione di un mio amico appassionato di informatica. Io ho partecipato a questa iniziativa anche al CSM, ho depositato in occasione di incontro e di studio anche il CD che gestisce appunto questi procedimenti. Non ho avuto però notizia che sia stato adottato in altri tribunali. Mi pare di no. Come se lo spiega? Voglio dire, lei avete messo a punto con un insieme di informatici un sistema per velocizzare il tutto, fare i documenti più veloci, ridurre in un'unica udienza tutta una serie di adempimenti burocratici che snelliscono la procedura per quel che riguarda per esempio le separazioni e quindi poi i divorzi, e ha depositato il tutto, l'ha dato al CSM e rimane a Varese per ora, si applica solo a Varese. Da notizie che io ho attinto in occasione appunto di quegli incontri di studio a cui facevo riferimento, che in altri tribunali hanno raggiunto ugualmente una velocizzazione di trattazione di queste procedure, ma l'hanno fatto con dei criteri assolutamente artigianali, tanto per fare richiamo a tempi andati ad interventi tipo ciclostile, insomma hanno un prestampato che viene compilato di volta in volta. Noi abbiamo realizzato invece uno strumento che consente di gestire l'intero iter procedimentale. Per farle un esempio, alla fine dopo la pubblicazione della sentenza, quando la sentenza passa in giudicato, quindi alla fine del procedimento, il cancelliere è tenuto a dare comunicazione all'ufficiale dello Stato civile appunto del comune in cui è stato celebrato il matrimonio, che è stata emessa la sentenza di divorzio, e ovviamente per fare questo deve tenere uno scadenzario, lo farà manualmente, lo farà segnandoselo sull'agenda. Noi l'abbiamo gestito informaticamente, informatizzandolo, lo scadenzario ci dà un avviso una settimana prima, e quindi il cancelliere sa, preleva dall'archivio informatico sì. la sentenza e la comunica per estratto. Fa un po' effetto, Presidente, sentire quello che dovrebbe essere la normalità, insomma, in tutti gli uffici siamo in un mondo ormai informatizzato, ma insomma sappiamo che il mondo della giustizia purtroppo a volte viaggia ancora con i faldoni, con i fascicoli, con le cose da scrivere, gli appunti da scrivere appunto dal cancelliere a penna sull'agenda. Certo, ma la normativa prevede per esempio le comunicazioni o le notificazioni per via telematica. Il problema è che non ci sono strumenti per realizzare sì. queste nuove tecniche, e soprattutto manca una nuova cultura, perché questa è una trasformazione, mi riferisco alla trasformazione informatica, che richiede una trasformazione culturale, perché i soggetti del processo sono più di uno, ci sono sono anche gli avvocati che naturalmente devono essere coinvolti e si devono e devono adottare questo strumento perché questo possa avere speranza. Ma questo credo che a Varese, tra l'altro, la collaborazione, lei in un'intervista ha detto degli avvocati, proprio c'è stata una grande collaborazione in questo senso. Io vorrei per un attimo, allora oggi Renato Brunetta torna sul tema con una lettera alla stampa sulla quale vorrei coinvolgere gli altri ospiti. Il punto di partenza è di Brunetta, sostanzialmente, riassumo la prima parte, l'assenteismo, la lotta all'assenteismo l'abbiamo fatta, ha dato dei risultati in alcuni settori. Come sono andate le cose nel comparto giustizia, si chiede Brunetta, non lo so, non lo sa nessuno, perché i dati non sono mai arrivati. La trasparenza è stata rifiutata dall'insieme degli uffici periferici, non abbiamo dati relativi alla presenza di magistrati, dei cancellieri, dell'altro personale amministrativo, tutti dipendenti pubblici. Che sia chi amministra la giustizia a sottrarsi alla trasparenza non è un bel esempio. Segretario Cascini, Associazione Nazionale Magistrati, perché ci sono state delle levate di scudi molto molto dure? Io capisco, insomma, la proposta di Brunetta, c'è da dire, la competenza del Ministro della Giustizia, quindi questo è un primo punto che vi ha fatto, insomma, arrabbiare. Però la questione dei dati sull'assenteismo, dice Brunetta, dal comparto giustizia non si sa nulla. Beh, io non so francamente a cosa si riferisca il ministro Brunetta, che credo ignori il fatto che i magistrati non hanno un orario di servizio, perché lavorano 24 ore al giorno, nel senso che non c'è un inizio e una fine dell'orario di servizio. Nei dati che lei ha dato bisognerebbe aggiungere delle integrazioni, per esempio il contenzioso, che in Italia è di gran lunga superiore a quello degli altri paesi europei. Cioè, non dobbiamo considerare le cause pendenti, ma le cause che entrano ogni anno nei tribunali e il numero di procedimenti che riescono a essere esauriti. In questo modo noi potremmo verificare che la produttività dei magistrati italiani è molto più alta della media dei magistrati europei. Il problema è che noi abbiamo un contenzioso molto elevato e questo è il primo dei problemi del sistema giudiziario. Questo è vero, segretario, le devo dare atto. Io lo cito il dato: i processi conclusi per 100.000 abitanti sono 4.516 in Italia. Siamo tra i migliori in Europa, solo siamo, diciamo, al secondo posto. Quindi qualcuno dice: vedete che i giudici lavorano. Io l'ho detto, infatti, banda e qualunquismi, però effettivamente continui il suo ragionamento, Cascini. Sì, no, e questo voglio dire, che il modo per misurare il lavoro di un magistrato è quanto produce in termini di definizione dei procedimenti a lui assegnati, non il numero di ore presenti in ufficio, perché purtroppo, forse il ministro Brunetta non lo sa, i magistrati non hanno, la maggior parte dei magistrati non hanno un ufficio. I giudici civili dividono una stanza in quattro giudici e in quella stanza fanno anche udienza, per cui quando un giudice fa udienza, gli altri tre devono stare a casa e a casa loro scrivono le sentenze. Questa è la situazione della giustizia in Italia. Lo sa cosa risponde oggi Brunetta, sempre su questo, sulla stampa? Dicono i magistrati, ci portiamo il lavoro a casa, e dice, mica voglio una giustizia amministrata nel tinello, mancano gli uffici, si organizzi il lavoro giudiziario in modo che gli uffici ci siano e siano aperti al pubblico. Che problema c'è? Ecco, questo francamente diventa una specie di provocazione, che il governo dica a noi che noi dobbiamo organizzarci, chi è che deve fornire le stanze, chi è che deve realizzare gli uffici, chi è che deve garantire la presenza del personale in ufficio. E gli uffici giudiziari sono aperti fino alle 14 perché il personale amministrativo ha un orario 8-14 e tutte le circolari ministeriali vietano di fare lo straordinario perché non ci sono fondi per fare lo straordinario. Alle ore 14, salvo i pochi dipendenti che fanno l'orario articolato anche sul pomeriggio e fanno 5 giorni a settimana, nessuno si ferma in ufficio, si fermano solo i magistrati che hanno una stanza. Allora lei mi dica, siamo noi che dobbiamo organizzare le stanze, dobbiamo venire con la calce e i mattoni e costruirci delle stanze? La traduco così, Cascini, lei dice, volendo anche fermarsi non possiamo, volendo, certo, anche fermarsi, guardi, di più non possiamo. I giudici civili, le ripeto, dividono in quattro una stanza ed è la stanza dove si fa udienza, quindi gli altri giudici, gli altri tre giudici, il giorno in cui il collega fa udienza stanno a casa perché non hanno un luogo fisico. dove esercitare la loro funzione. Allora, io su questo mi faccio andare dall'avvocato Grimaudo e da Massimo Martinelli. Avvocato Grimaudo, visto che sei citato il contenzioso, siamo un popolo di litigiosi? La risposta è sì, la do già io. E c'è in questo anche una risposta? Sì, Grimaudo. Scusate, perché stiamo attraversando una galleria, non so se mi sentite. La sentiamo benissimo. Siamo un popolo di litigiosi e in questo c'è responsabilità anche degli avvocati, le chiedo? La galleria. Martinelli, Massimo, autore della Palude, gremese editore. Ci sono storie positive, quella di Courtois, che tra l'altro un ascoltatore ci dice: per favore inviatelo al sud un magistrato così, in modo che magari sistemi un po' anche le falle che ci sono al sud. Un principio che tu hai ben chiarito nel libro è che è un po' una questione di fortuna, anche questa questione della giustizia, cioè capiti in una grande città, può andare bene, può avere un tribunale efficiente, capiti in situazioni dove la giustizia è un disastro. Già questo è un primo punto incredibile per un paese civile. Ma naturalmente la metafora della fortuna serviva per alleggerire un po' il discorso, per ironizzare. La fortuna si riferisce al fatto che si può capitare in un tribunale dove c'è un magistrato come Courtois o come tanti altri, oppure si può capitare in un tribunale dove non c'è questo magistrato. Cascini ha ragione quando dice: c'è un contenzioso enorme e le cause, facciamo bene a chiederle a Grimaudo quali sono. Però è anche vero che questo grande contenzioso che entra in alcuni tribunali viene smaltito, in altri tribunali non si riesce a smaltire, a parità di condizioni, a parità di mezzi, a parità di uffici, a parità di soldi. Kuno Tarfusser, che è diventato il magistrato simbolo italiano dopo che Brunetta l'ha inserito nella lista dei 100 meritevoli, è uno che 2 anni fa ha visto che non aveva soldi, dal ministero non arrivavano, ha preso carta e penna, ha scritto alla Commissione europea, si è qualificato come amministratore delegato dell'impresa Procura di Bolzano, si è fatto dare 250.000 euro e ha cominciato. Ma non solo, Kuno Tarfusser è anche uno, l'abbiamo avuto, che ha detto: io devo mandare, non so, 200.000 fotocopie di atti al ministero, per me non servono, io non li mando, non impiego per 4 giorni un cancelliere o una persona a fare fotocopie, esatto. E quindi io vado in deroga a questa regola stupida. Voglio dire, il capitale umano, l'organizzazione umana conta, insomma, poi, Martinelli. Assolutamente, ma conta anche l'inventiva, la genialità, che poi sono le caratteristiche dell'italiano riconosciuto in tutto il mondo. La cosa che vorrei dire è che nelle condizioni di stress, di carenza di mezzi, di affaticamento, si verificano paradossalmente le condizioni migliori per crearsi un alibi per non lavorare. E questo è il motivo per cui servono i controlli. In questi giorni si sta dicendo molto, l'ANM per la prima volta, bisogna riconoscerlo, sia Cascini che Palamara, che il Presidente, dicono: premiamo i migliori, va benissimo, però per il momento i migliori in Italia sono Tarfusser a Bolzano, il GIP Beluzzi a Cremona, che ha informatizzato completamente il suo ufficio. Tarfusser lo stanno per mandare all'AIA, Beluzzi sì. Lo faranno sindaco di Cremona, quindi li tolgono dalle categorie dei magistrati. È vero, mi hai anticipato, Tarfusser ha chiesto di andare a fare il giudice all'AIA, quindi è stato proposto dal governo, per senso. Quello che so io gliel'hanno proposto, insomma ce n'era uno buono e uno, nel senso, ce ne sono tanti, ma uno tra i migliori probabilmente andrà via. Diamo un paio d'ascoltatori, poi recuperiamo anche l'avvocato Grimaudo dopo la pubblicità. Alberto dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno, dite? Benissimo. Sì, io ho fatto il giudice di pace per 5 anni. In 5 anni non ho mai scritto una sentenza in ufficio, per l'ottimo motivo che in ufficio non c'erano i computer. Quindi mi portavo a casa il lavoro e redigevo le sentenze non nel tinello ma nel mio studio. Seconda considerazione. Fra le varie concause nessuno nomina una che secondo me è molto importante, ed è l'eccessivo numero di avvocati che abbiamo in Italia. Come no, ma adesso quando recuperiamo Grimaudo siamo anche lì primi, primissimi. Sì, ma primissimi. Abbiamo una pletora di avvocati che per campare, invece che vincere le cause in tribunale, tendono a vincerle con manovre dilatorie, utilizzando tutti i possibili cavilli per cercare di far scattare la prescrizione sì. In favore dei clienti. Io sono parte civile in una causa che è iniziata 10 anni fa e che si è interrotta 3 volte, perché ogni volta che il collegio si modificava, perché un magistrato veniva trasferito, un altro andava in pensione, si ricominciava la liturgia, perché gli avvocati ovviamente contestavano la possibilità che il collegio utilizzasse gli atti. Per esempio io ho fatto 3 volte la mia deposizione. Beh, insomma, le tattiche dilatorie ci sono all'interno della tattica processuale. Certo, il numero degli avvocati anche qui è altissimo rispetto agli altri paesi. La classifica, i dati che ho dato all'inizio, insomma, primeggiamo in tutto, anche in quello. Tante volte si diceva solo a Roma c'è il numero di avvocati che c'è nell'intera Francia, Roma e provincia. Prima di andare agli ascoltatori, avvocato Grimaudo, presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili. Allora, in Italia ci sono 170.000 avvocati, in Spagna 116.000, in Germania 138.000, in Francia 47.000, insomma anche qui primeggiamo. Sarà anche per questo che siamo troppo litigiosi, oppure insomma anche gli avvocati devono campare? Gliela butto lì, presidente. D'accordo, il dato credo che vada rettificato, perché dalle ultime notizie che ho avuto io siamo 210.000. Scusi, sono andato per difetto allora. Aumentiamo in maniera esponenziale. Erano i dati del 2006 effettivamente, quelli del Consiglio d'Europa. Vabbè, perché il filtro per diventare avvocati è diventato una cosa assolutamente trascurabile. E il sistema di tirare a campare in mancanza di altre occupazioni spesso diventa la laurea in giurisprudenza e poi affacciarsi al mondo dell'avvocatura. Però il cercare il bruscolino nel marasma generale. Non c'è dubbio che ci sono tanti avvocati che iniziano le cause soltanto per un ritorno economico che poi va a danno del cliente, ma mi creda, sono una minoranza. I problemi della giustizia, come sentiamo dal Presidente del Tribunale di Varese e dal Segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati, sono altri. Uno di quelli che noi individuiamo come determinante è il fatto che la procedura è diventata talmente complicata per cui quando si tratta una causa i magistrati, prima di entrare nella sostanza del diritto, sono costretti a esaminare tante questioni formali inutili. Sì, per esempio? Noi abbiamo 30 modi di introdurre la domanda al giudice. Non esiste la possibilità di avere un processo semplice lineare. Il ministro ha confermato, così come ormai tutti dicono che si deve fare, che bisogna unificare i riti, fare un unico processo, un processo alla europea. Noi siamo l'ultimo paese europeo che introduce la domanda con un atto di citazione con termine a comparire a 90 giorni. Però presidente, mi scusi, molti avvocati cambiano anche magari l'indirizzo o si cambia avvocato il giorno prima dell'udienza in modo che arrivi una notifica sbagliata o all'indirizzo sbagliato. Fa saltare dei termini, fa rinviare, no? No. Vabbè, questa è una botanda. No. Quando si deve notificare la citazione ancora non c'è un avvocato costituito, perciò non c'è, no questa non è una delle ragioni. Consigliano all'imputato di cambiare domicilio, cambiare. Io parlo di civile, un momento. Sì, sì. Vabbè, il penale è tutto un altro mondo nel quale non mi sono mai affacciato. Vabbè, senta, ma secondo lei i magistrati lavorano poco o tanto? Dovrebbero lavorare di più o che? Dunque, i magistrati in genere lavorano tanto, quelli che lavorano. Solo che noi dimentichiamo spesso che il 60% dei giudici non sono magistrati. Attenzione. È vero. Questo è un dato che nelle conoscenze comuni non esiste. Noi abbiamo più del 60% di gente che emette sentenze che non ha mai fatto un concorso in magistratura, con le conseguenze che seguono. Le prassi virtuose del Tribunale di Varese e prima del Tribunale di Torino si impattano contro il collo di bottiglia della Corte d'Appello, sì, dove si fissano le udienze al 2015. No, ma sicuramente, insomma, il problema poi è che ci sono dei casi anche di eccellenza, ma poi se ci sono, come dice lei, colli di bottiglia da altre parti, questi casi di eccellenza si vanno anche a smarrire. Diamo due ascoltatori prima di tornare da Cascini e Martinelli. Ferdinando da Lucca, buongiorno. Abbassi, spenga la radio, anzi, Ferdinando, dica. Sì, buongiorno. Senta, a proposito della questione di Brunetta, sì, che pretende di calcolare l'assenteismo dei magistrati, a parte l'evidente osservazione che questo tipo di iniziativa dimostra l'assoluta ignoranza delle procedure di lavoro della magistratura e del magistrato, in particolare specifico come singolo, è palese l'ignoranza di Brunetta, il quale non sa che la Costituzione stabilisce che la magistratura non è formata da dipendenti dello Stato. Poi risponde al Ministro della Giustizia, ma questo l'abbiamo già detto, ma voglio dire, Brunetta dice anche tutto il personale amministrativo, per esempio, dei tribunali, quindi non sei cancellieri. I tribunali funzionano con i tempi, i modi e le prescrizioni fissate dai magistrati, quindi è un ordine a sé stante che non deve rispondere alla pubblica amministrazione, ci mancherebbe altro, e naturalmente ha una sua giustificazione nell'autonomia stabilita dalla Costituzione. Tutto il resto sono delle grandissime sciocchezze. È chiaro che oggi bisogna intervenire su quello che è l'ordinamento operativo e le modalità specifiche di lavoro della magistratura. Va bene, questo, se non c'è dubbio. Grazie Ferdinando. Attilia da Cuneo, buongiorno. Buongiorno. Dunque, io sono un avvocato e ho sentito quello che è stato detto fino adesso, ritengo che la questione dovrebbe essere posta in tutt'altri termini. Se in Italia siamo nella situazione in cui siamo è semplicemente perché non funziona nell'apparato della giustizia un sistema sanzionatorio. E è l'unico apparato dello Stato dove il sistema sanzionatorio non funziona per nulla. Anche quando si denunciano casi assolutamente eclatanti di mala giustizia, non si riesce mai, né attraverso i presidenti dei tribunali, né attraverso i presidenti delle corti d'appello, né attraverso tantomeno il Consiglio Superiore della Magistratura, ad ottenere che casi eclatanti vengano. Cioè, sta dicendo il magistrato che sbaglia non paga. Esatto. Ha fatto non notizia, paga, ha fatto notizia quello di Edi Pinatto. Ha fatto non, notizia Edi Pinatto, guardi, quello che ci ha messo 8 anni a scrivere la sentenza. Ma non è tanto quello. È stato alla fine radiato, non sostanzialmente. Quello. Non è tanto quello. Sono le piccole cose, sono quei magistrati che, ad esempio, a fronte di un riconoscimento di debito dove la causa potrebbe essere chiusa in 2 udienze, trascinano la causa per 3-4 anni disponendo CTU assurde eccetera, e malgrado si denunci la questione non succede niente. Il capo dell'ufficio risponde: sta esercitando liberamente le sue funzioni giudiziarie. Allora, Attilia ha posto una bella domanda a Cascini. Cascini, non mi dica che non c'è questo problema, che ci sono le sanzioni dei giudici che sbagliano, che sono tante, saranno pochissime, insomma. Ha fatto notizia quella di Edi Pinatto, ma è un caso clamoroso, insomma. Intervenne anche il Presidente della Repubblica. L'ascoltatrice, avvocato, dice: non c'è sistema sanzionatorio per i magistrati che sbagliano. Guardi, io sfido chiunque a comparare i numeri delle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati con quello degli altri organi di disciplina nella pubblica amministrazione. Incomparabilmente superiori sono i dati del disciplinare dei magistrati. Però anche qui vogliamo seriamente dire che la causa delle disfunzioni della giustizia è la mancanza di sanzioni nei confronti dei magistrati? Se no, torniamo alla propaganda sui tornelli. Io ci saranno una serie di cose, anche questa, però voglio dire, un sistema dove non c'è un sistema sanzionatorio efficace. Ma non è vero. Il problema è che chi afferma una cosa del genere dovrebbe guardarsi la giurisprudenza disciplinare del Consiglio, che condanna sistematicamente i magistrati per i ritardi. Ci sono alcuni magistrati, pochi, che non rispettano i tempi di deposito delle sentenze e vengono sistematicamente puniti, ma noi siamo gli unici che lo fanno. perché gli altri organismi disciplinari, a cominciare da quelli dell'avvocatura, non fanno assolutamente nulla al proprio interno. Quindi non è vero, semplicemente non è vero. Non è che siccome una cosa la si ripete costantemente poi diventa vera. Non è vero. Vediamo se su questo, io ho letto anche il libro, ne abbiamo dedicato una trasmissione di Luigi Ferrarella, Fine Pena Mai, ma c'è anche Massimo Martinelli che ha scritto un libro, La Palude. Che ne pensi, Massimo, sul spesso si sente dire, è un leitmotiv, come dice Cascini, dire ai magistrati non è vero, che non pagano quando sbagliano, oppure c'è una difesa corporativa? Ma io penso che la magistratura oggi dovrebbe porsi il problema di come vuole apparire agli occhi dell'opinione pubblica. Perché Cascini, che è un magistrato valentissimo, che io apprezzo, prima ha detto i magistrati lavorano 24 ore al giorno e adesso ha detto i magistrati sono i più puniti. Due settimane fa la Cassazione ha fatto una sentenza in cui ha bacchettato letteralmente il CSM, specificatamente nella sezione disciplinare, perché è morbido nei suoi provvedimenti disciplinari. Siamo arrivati al caso di Edipinatto, che non ha scritto una sentenza per 8 anni e mezzo, ma come diceva l'avvocatessa, quello che fa male alla gente è vedere il ritardo sulla piccola causa, sulla cosa che tocca... che tocca i propri interessi minimi. È quella causa di due braccianti che si sono presentati, tu citi nel libro, gli hanno detto si ripresentino nel 2020. Ma lì fu un errore, credo, della cancelleria, che evidentemente non guardò la patente di quel signore, non si accorse che aveva 70 anni e non pensò che nel 2020 forse quello lì aveva anche poco interesse ad avere quel rimborso INAIL che doveva avere. Però la cosa che stavo dicendo prima è questa, siamo in presenza di condizioni eccezionali, un ministro della giustizia che è giovane e abbastanza dialogante, Cascini e Palamara sono due giovani, hanno in tre poco più di 100 anni, secondo me loro possono farcela, devono soltanto trovare la forza e la capacità di superare le ideologie e trovare un dialogo. La politica è l'arte della mediazione, la magistratura ha fatto della politica uno dei suoi strumenti di battaglia, dovrebbe utilizzarla ad ampio raggio, quindi anche mediando, cedendo un po', lo stesso dovrebbe fare il ministro, il ministero e il governo, e probabilmente potrebbero farcela, perché davvero è una situazione di assoluto sbando quella in cui stiamo vivendo adesso. Presidente Grimaudo, lei prima, quando le ho detto ma i magistrati mediamente lavorano, mi ha dato una risposta che, se permette, è un po' una non risposta. Dice no, lavorano molto quelli che lavorano. Le chiedo, quanti lavorano, voglio dire, cioè lei dalla sua esperienza che dice? C'è Brunetta che dice i tornelli, controlliamo la produttività, no. Che ne pensa? Magistrati togati al civile lavorano molto, sono pochissimi. E poi quando ci aggiungiamo le maternità, io ho delle cause bloccate da 6 mesi, perché il giudice va in maternità e non è sostituito. Vabbè, e tu questo, ben vengano i bambini, però la giustizia ne soffre parecchio. Vabbè, ho conosciuto recentemente un magistrato del TAR che lavora moltissimo. La moglie che va in ufficio 2 volte alla settimana. Cioè, questo è andato via un attimo la linea. Cioè, un magistrato del TAR che gli ha detto lavoro a casa e vado 2 giorni alla settimana. Sì, sostanzialmente. Dico, lo sentivo parlare di viaggi bellissimi, costanti. A un certo punto gli ho chiesto, mi dica, ma lei quante ferie ha? No, dice, io oltre le ferie poi mi organizzo i weekend, eccetera. Vabbè, però mi risulta che lavora veramente tanto. Vabbè, e a un certo punto è sfuggito a una frase, dice, con riferimento al traffico, dice, mio marito va al TAR 2 volte alla settimana, però lavorano. Dico, non è soggettivo. Brunetta penso che non riuscirà mai a metterli sotto controllo in questo modo. Il controllo va esercitato attraverso il giudizio di produttività, sì, che non so come lo attiveranno. Voglio dire, però il rischio che sennò diventi un'isola un po' incontrollabile, allora, secondo quello che mi dice, se sono d'accordo con lei, con i tornelli, insomma, sono un po' una butade. La produttività non si sa come la si misuri, voglio dire. Comunque, diamo un ascoltatore, Stefano da Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno. buongiorno. Sì, io faccio il magistrato. Bene. Saluto anche Casci. Ecco, ci sarebbero molte cose da dire che mi vengono stimolate anche dalle cose che ha detto adesso l'ascoltatore, però cerco però di guardi che è il presidente dell'Unione Nazionale delle Camere Civili, è il presidente degli avvocati civilisti. Stavo spegnendo la radio perché mi chiedo scusa. No, no, però voglio dire, il modo per controllare la, dico due cose rapidissime. La prima è che il modo per controllare la produttività chiaramente non al centimetro o al millimetro, c'è, è il numero delle sentenze che vengono fatte, il numero di udienze che vengono fatte, il numero di provvedimenti che vengono resi, in rapporto anche a quello che un magistrato in camera, se un magistrato in camera gli arrivano 100 affari al mese ne smaltisce 100, che siano pochi o molti non lo so, ma sicuramente è un ottimo magistrato perché non crea arretrato, certo, o non aumenta l'arretrato che ha trovato. L'Associazione Nazionale Magistrati sono a memoria mia 20 anni, forse un po' meno perché io 20 anni fa non facevo il magistrato, ma sicuramente da quando io sono entrato in magistratura, che ha fatto convegni, studi, proposte sulla valutazione di professionalità dei magistrati. Possono piacere o non piacere, ma noi l'abbiamo sempre chiesta e Cascini glielo può dire meglio di me, visto che sta in NM più, da più tempo e meglio, sì, di me. Per quello che riguarda la sezione disciplinare, io capisco che in un programma come questo non sia possibile avere tutti i dati in tempo reale possibili, anche nella preparazione non è possibile, però la fandonia assoluta detta dall'avvocato 2 minuti fa, l'avvocato di Milano o non so dove, di Cuneo, credo. Di Cuneo, d'accordo, che i magistrati non vengono condannati, oltre a quello che ha detto Cascini, che non è stravero, ma è straverissimo, perché poi alle condanne bisogna aggiungere tutte le procedure che, sì, si interrompono perché il magistrato dà le dimissioni per non essere condannato disciplinarmente. Non sono molte, per fortuna, in rapporto al numero di magistrati che ci sono, perché non ci sono tanti fannulloni o tanti disonesti. Mm-hmm. Però, tanto per dire, Corrado Carnevale non è stato condannato disciplinarmente, ma non è stato condannato disciplinarmente perché ha dato le dimissioni, poi è stato riammesso in virtù della famosa, sì, legge, sì, insomma, lei dice prima di essere condannato. Vabbè, ultima cosa, le sanzioni ci sono, di... Guardi, ultima cosa, sì, però il numero è importante, perché lei face, lei, noi, no, abbiamo... Però insomma anche Massimo Martinelli ci ha detto, insomma, che la Cassazione è intervenuta in un senso contrario, ma scusi, a bacchettare un po', a dire... Fa, ma scusi, la Cassazione da che fa? Non è fatta da magistrati, ma non, certo, siamo noi stessi quindi che ci autocritichiamo. Sì, ho capito, però ha detto il CSM è troppo morbido e il CSM è quello che dà le sanzioni, lei mi dice che ci sono le sanzioni e altri magistrati dicono che non ci sono. Guardi, io la invito, non lo posso fare adesso, io la invito a prendere le statistiche che sono disponibili. Se lei non le trova, gliele faccio avere molto volentieri, e sono numeri assolutamente non rapportabili a qualunque categoria. Ultima cosa, lei mi deve dire, sì, davvero, quale dipendente pubblico o quale libero professionista ha nel suo consiglio di disciplina delle persone che non sono colleghi? Un terzo della sezione disciplinare è fatta da avvocati e professori, sì, universitari, cosiddetti laici, che non sono colleghi, e forse anche questo è uno dei motivi per cui c'è qualche condanna. Va bene. Di disciplinare in più. Grazie, al contrario degli altri. Grazie studenti. Stefano. Cascini, Brunetta nelle varie proposte, credo oggi al Riformista ha fatto un'intervista, ha detto ci vorrebbero i manager in ogni tribunale, in modo da controllare in maniera manageriale la produttività. Si sente che già sbuffa, sorride, no? Che... No, no, io, guardi, sono allarmato del fatto che anche in questa trasmissione, da parti diverse, avvocati, magistrati, vengono individuate correttamente le cause reali del cattivo funzionamento della giustizia e dei ritardi, e sono l'eccesso di contenzioso, il numero di riti, le procedure farraginose, la mancanza di investimenti sull'informatica. Queste sono le cause reali che rimandano alla responsabilità del governo. Il governo dovrebbe aggredire le cause reali del malfunzionamento. Poi noi siamo disponibili a discutere anche come fare per migliorare i controlli di professionalità dei magistrati. Siamo stati noi a suggerire al ministro Castelli che ci voleva far fare gli esamini, il concorso ogni 2 anni. Gli abbiamo detto no, fai un sistema di valutazione di professionalità serio. Ogni 4 anni noi facciamo la valutazione di professionalità sul modo in cui lavora un magistrato e si può arrivare alla destituzione. È stato introdotto dalla riforma dell'ordinamento giudiziario su nostra richiesta. Noi siamo i primi a volere questo. Però diciamo, vogliamo parlare delle cause vere per cui la giustizia non funziona. Allora, quando un avvocato ci dice ci sono 37 riti, il ministro della giustizia ha detto: avete ragione, io mi impegno a toglierli. Sì. Poi fa la riforma del processo civile, è oggi in discussione in Parlamento, e ne ha abolito uno. Sono da 38, sono passati a 37. Questa è la realtà. Non hanno la capacità di fare nessuna delle riforme che servono. Su questo... E allora, di fronte a questa incapacità, se la cavano con la propaganda e con le battute. Va bene, su questo, Cascini, mi devo fermare perché ho finito il tempo. La ringrazio, come ringrazio tutti, ringrazio Grimaudo. Massimo Martinelli, voglio ricordare, giornalista del Messaggero, ha scritto il libro La palude, gremese editore. Insomma, La palude è riferita al sistema, in che punto è la giustizia italiana, in una palude. Grazie a tutti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione, Giorgio Mattei in regia. Con Viva Voce ci ritroviamo domattina.